Non è che siamo qui a rigare conchiglioni, eh? Gigi, domani posso tornare? Dipende. Mica noccioline, qui si va di cassa. Dai, sulle mani. Qui si va di cassa. Se volete mandare le vostre lasniche, scrivete un S. Sms. S M O E. SMS. SMS. Bravo. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Con la musica mi tiro su. Con quella di Gigi ancora di più. Con quella di Gigi ancora di più. Gigi D'Agostino? Eh? Ah, è cazzemma. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti aspetta qui. Ti aspetta qui alle 18. Stai calmo e sereno, alle 18 parte il treno. Parte il treno. Parte il treno. Finire il vocalist. Eccomi. Se questa musica vuoi ascoltare su M2O ti devi sintonizzare. Zare, zare, zare. D'Agostino. Una grande famiglia d'Anzonti. Una grande famiglia danzante. Ho cambiato voce, sì. Tese. Sabato sera ci vediamo in Spagna, discoteca Big Bang. Mica ci vado in Spagna però. No. Come together, make it work. We can make it work. Cercate la penna. Ok. Prendete il foglietto. Questo è il numeretto. Se volete scrivermi il numero di... Dove è andato Gigi Dagottino? Gigi. Se volete scrivermi il numero di... telefono per mandare i vostri sms è il seguente. Vabbè. 333-64-67-662 333-64-67-662 333-64-67-662 333-64-67-662 Ti stiamo stimando, che sta suonando Gigi D'Agostino? Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Musica e colori per bimbi e genitori. Bravo. Arriva, Gigi D'Agostino. Spegni il cellulare, questo è il cammino, lasciati andare. Ci fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. È arrivato il folclorista, Dai un po'. Gigi D'Agostino. suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sabato sera, possiamo dire? Certo, vai. Ok. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Spagna. Sabato 23 settembre 2006, discoteca Big Ben Disco, Golmes, Leida, Spagna. E ci troviamo lì sabato notte, eh? E questo è chiaro. Tutto a posto. E ascoltando Il Cammino dalla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi del Cammino. Passi, passi del Cammino. Tu sei Gigi, tu Cammino. Questi passi del Cammino sono Gigi d'Agostino. Il Cammino di Gigi D'Agostino. Letteralmente corretto, musicalmente perfetto. Agoso, non giochiamo. E appunto. Ascoltando Del Cammino dalla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi del Cammino. E ascoltando Del Cammino dalla Gigi D'Agostino. Passi, passi del cammino. Questi passi del cammino sotto Gigi D'Agostino. Questo cammino è per chi non si vuole abituare a nulla. Questo cammino è per chi non si vuole abituare a nulla. Il Cammino di Gigi D'Agostino. la radio a colori. Questi ritmi qua non capisco più niente, me ne vado proprio. Ciao ciao bro. Dai G. Ecco un suono all'improvviso. È Gigi Dag che sta mixando. Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo. Gigi D'Agostino sulla testa. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti aspetta qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui. Ma cosa? Alle 18. Sì, sì. Non abbiamo tempo da perdere. We'll be right back. Pisci un po' sta musica. Bella Gigi. Gigi D'Agostino. Ti devi lasciar prendere dal passo e imboccare quel sentiero che ti indica il ritmo. Come? Il ritmo. Prende vita. Mi piace passeggiare ovunque. Mi piace pasticciare con i miei colori anche fuori dal foglio. Mi piace guardare altrove. Mi piace esagerare, rischiando di capire chi sono. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino.

non torno più. Gigi D'Agostino vi saluta. Ciao.